piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Il giorno successivo non portai nemmeno le mie forbicine e la tintura di iodio, ma commisi un altro errore di battitura. Che cosa le prende? Non è così difficile, non deve fare altro. Battere e rispondere al telefono, è troppo per lei. Mi dispiace. Beh, di sicuro sembra che lo sia. Mi dispiace. Non si scusi con me. Si può sapere che cosa le prende? Che cosa diavolo ha in quella sua testa? Lo so, è un triste luogo comune e sarò accusato di sordido maschilismo. Devo partire con un'esperienza autobiografica per far capire il portato sociale di questa trasmissione. Mi capitò una volta nella mia vita, non so per quale circostanza banalmente folle, di essere direttore. Il primo giorno che entrai nel mio ufficio vennero le segretarie a salutarmi. La capa delle segretarie, con la quale ebbi un colloquio privato per capire esattamente cosa accadeva in quell'ufficio, da quel momento era il luogo della mia direzione, mi disse: direttore, se le vuole io posso allacciarle le scarpe. Lì per lì non capii, portavo i mocassini a quel tempo, era una moda veramente detestabile. Dopo anni mi fecero capire che esattamente era nel gergo di quell'azienda: allacciare le scarpe significava sottoporsi a un'operazione di pronazione in un atto di sottomissione che naturalmente mai avrei chiesto a una segretaria. Beh, questo probabilmente è alla radice del gesto di ribellione di tutti i segretari di genere femminile della Camera. Perché a un certo punto, per la giusta e assolutamente non criticabile direttiva della presidenta Boldrini, tutti hanno dovuto declinare al femminile la loro professione. Sul cartellino che si portano addosso, attaccato al petto col simbolo della Camera, che ne so, l'archivista rimane archivista, perché se anche donna è archivista finisce con l'A, ma il consigliere diventa consigliera. A un certo punto mi sembra di aver capito che ci sono delle persone che hanno un ruolo che dal punto di vista della gerarchia interna alle nostre istituzioni è un ruolo importante. Sei segretario alla Camera, può essere un uomo o una donna, è segretario, non è la segretaria quella che fa le fotocopie, quella che batte le lettere, quella che porta il caffè, quella che appunto nei più detestabili luoghi comuni allaccia le scarpe. No, il segretario è un dirigente. Beh, il segretario, se ha visto scritto segretario, ha detto no. Io assolutamente, si è rivolta ai sindacati, c'è stato un numero cospicuo di persone, il 10% delle 47 donne sono, che lavorano a Montecitorio, si sono rivolte ai sindacati, dice no, questo viola la nostra privacy di genere, ma in realtà il segretario donna non vuol vedere scritto segretaria. E a questo punto io pongo questa questione al mio pubblico. È qualcosa di antico, di obsoleto questo termine segretaria? Riassume in sé una professione che non ha più senso di esistere, perlomeno delimitata da questi terribili sordidi maschilisti luoghi comuni. Tutte le segretarie che conosco si fanno chiamare assistenti. Cosa fai, cara, di lavoro? Faccio l'assistente del amministratore delegato. In realtà fa la segretaria, ma fa l'assistente. Perché evidentemente, nella nostra giusta correzione lessicale, il termine segretaria ricorda qualcosa di antico, di ancillare. La segretaria è una seconda moglie, in molti casi fa anche le veci da moglie nelle più intime delle funzioni, ma sono cose terribili, da commedia italiana anni 50, da film di Alberto Sordi, da cinepanettoni con Christian De Sica e Boldi. Beh, oggi vediamo un po' di capire esattamente, voi che svolgete una funzione di segretaria, vi fate chiamare assistenti, trovate che sia giusto che i segretari della Camera reputino quella che è la vostra professione qualcosa di vergognoso? 800 24 0024, voglio far parlare tutte le segretarie d'Italia. Sì, pronto, è l'urologo Poggi? Sì, salve, senta, posso prenotare una visita per il 23? No, guardi, non è per me, è per il mio capo. Eh sì, praticamente ha problemi di erezione. Angelica, mi prendi un caffè? Sì. Sì, ma ricordati, macchiato freddo in tazza grande. Ok. Ah, tra l'altro mi dovresti andare anche in farmacia a prendere lo Xanax. Ok. Guarda, trovi le chiavi sul tavolo, vai con la mia macchina. Se ti capita, mettimi anche 50 euro di benzina, eh. Ok. E ti acconto, non è un problema. Ok. Una fetta di culo, no, eh? Più entriamo nei meandri di quella che è la realtà della professione segretaria, e più andiamo a scontrare con dei terrificanti luoghi comuni, sempre legati a una sorta di declassamento totale della dignità di un lavoratore. La segretaria realmente abbia anche come capo una donna, e non voglio ridurla alla classica e squallida equazione di segretaria uguale donna tutto fare per un uomo di potere. Conosco donne che hanno segretarie, le trattano peggio di quanto tratterebbero, non so, nemmeno una persona che le aggredisce per strada. Perché in realtà averci scritto davanti segretaria probabilmente si rientra in una sorta di vortice, di precipizio, in cui tutti si sentono in dovere di rivolgersi a una persona che deve essere una tuttofare. Avete sentito in questa parodia presa da YouTube, dal canale di Angelica Massera, viene ribadito quello che abbiamo sempre pensato. La segretaria è quella che deve portare il caffè, la segretaria è quella che deve sbrigare anche le questioni domestiche del suo capo, la segretaria è quella che l'agenda, è quella che dice pronto e risponde sono la moglie del direttore, e la moglie del direttore ha rapporto con la segretaria, che la considera quasi una badante di quella che è la rettitudine del marito, se la segretaria è al di sotto di ogni tentazione. Se la segretaria rientra invece in quella sorta di territorio pericoloso in cui le mogli dei direttori hanno qualche legittima suspicione, beh, allora la segretaria diventa il soggetto dell'osservazione. Vi sembra che è ancora giusto? Vi sembra che ancora possa esistere questo concetto? Voi in quante segretarie avete avuto nella vostra vita? Se avete avuto la fortuna comunque di avere un ruolo dirigenziale, un ruolo di responsabilità, come vi comportavate con queste segretarie? Trovate che sia giusto ormai togliere dal nostro parlare quotidiano un termine segretario che in sé racchiude tutta questa possibile schifezza umana? Il rapporto fra il capo e la segretaria è sempre un rapporto che comunque ha in sé dei residui di vessazione, di servaggio, di qualcosa che non appartiene più comunque né alle logiche professionali ma nemmeno alla civile maniera di avere rapporti con le persone. Siete convinti che debba realmente cambiare il termine segretaria, chiamarla magari assistente come tutte le segretarie si fanno chiamare, o magari, che ne so, dire non esiste più la segretaria, esiste l'account, troviamo una maniera per dire che esista qualcosa di diverso. Sentiamo Amelia. Amelia, buongiorno. Amelia? Sì, buongiorno. La sento lontana e anche caduta. Sicuramente non era una segretaria, le segretarie sono bravissime nel passare le telefonate, lei si è autoabbassata la telefonata. Comunque andiamo avanti la nostra riflessione, sentendo quando in realtà una segretaria riacquista a pieno titolo la sua dignità sociale, quando il suo capo in realtà lascia qualcosa a lei che dovrebbe in realtà lasciare alla moglie. Bernardo Caprotti, patronna di Esselunga, l'uomo che per mezzo secolo è stato il suo datore di lavoro, pur rimanendo sempre, per lei, fino all'ultimo, il dottore. Germana Chiodi aggiorna agli anni 2000 il prototipo di segretaria fedele e discreta, nel solco di una lunga tradizione della vita politica e imprenditoriale italiana. Da Vincenza Enea, storica assistente di Giulio Andreotti, a Marinella Brambilla, per anni braccio destro, poi defenestrato, di Silvio Berlusconi. Lascio 75 milioni di euro alla signora Germana, cui esprimo la mia immensa gratitudine. Le parole contenute nel testamento di Caprotti hanno acceso i riflettori su questa moderna Miss Money Penny. La segretaria di Caprotti eredita una fortuna, la famosa segretaria di Andreotti una tomba. Non uscì mai nessuno degli impalpabili segreti del presidente Andreotti a questa segretaria. La segretaria di Enzo Biagi ha pubblicato un libro in questi giorni. Questa categoria di segretari appartiene a un altro genere. Sono le vergini vestali, custodi del sacro fuoco e della genialità, del potere dell'uomo, che accudiscono per tutta la vita, stando vicino a questi uomini per tutta la vita. Conosco segretari che hanno continuato a fare le segretarie anche quando il capo andava in pensione, gratuitamente, per il solo piacere di assolvere quella che era la funzione principale della loro vita, essere al servizio di un uomo potente. Amelia, buongiorno. Buongiorno, dottore. Ecco, alla linea un po' febbricitante, comunque l'ascolto. Allora, innanzitutto complimenti, la seguo, e complimenti per la trasmissione. Se mi segue sa che a me i complimenti fanno praticamente quello che fa l'orticaria o le merangole e le mele annurche a chi ha problemi di artrosi. Sì. Lo so, ma di fatto se li merita. Vabbè, faccio grazie. Parte della categoria che lei... Lei è una segretaria? Sì, sono una segretaria. Ma lo è tuttora o lo è stato? No, lo sono tuttora. Oh, bene, allora abbiamo una testimonianza concreta e reale. L'ho seguita quando lei parlava dei segretari della Camera che ne stanno facendo una questione di genere. Ma perché secondo lei si vergognano di essere chiamate segretari? Ma io la trovo una cosa assurda, ma questo è un mio ovviamente parere personale. Di fatto se dovessimo guardare le declinazioni al femminile o al maschile, noi donne dovremmo trovarne ogni giorno a dozzine di queste cose da... Sì, però guardi, su questa vicenda della declinazione femminile, so che molte persone si arrabbiano dicendo l'Accademia della Crusca c'ha già i suoi termini. A me non me ne importa nulla, la lingua è fluttuante, mutevole, sono per il parolibrismo totale. E poi la questione di genere, a chi gli piace essere chiamato direttora, si faccia chiamare direttore, ma cosa ci cambiano? Però mi interessa adesso parlare proprio delle segretarie. Ecco, lei si fa chiamare, scusi, segretaria o assistente, tanto per cominciare? Le due cose non mi infastidiscono, tanto l'uno quanto l'altra. Le dirò che preferisco il segretaria, perché di fatto il mio ruolo implica anche dei segreti, nel senso, lei diceva prima, fanno le funzioni molte volte delle mogli, ed è vero. Nel senso che ci occupiamo non solo di quello che è l'operatività all'interno dell'azienda, ma anche di cose personali. Cioè dice, il ruolo da segretario è proprio un assistente, oggi si direbbe un coach, un personal trainer, qualcosa di più, deve entrare nella sfera privata, perché il direttore ha talmente tante cose da fare, non può pensare a tutto. E quindi se deve comprarsi calzini nuovi ci pensa la segretaria, giustamente, perché toglie a lui un'incombenza di tipo materiale che inquinerebbe l'indice di redditività della sua azienda, no? Io non lo vedo svilente. No, non mica svilente. Ma... lo ritrovo in una mansione, è ovvio che non è la mia mansione. Mi elenca, Amelia, mi elenca alcune mansioni personali che naturalmente non sono nel protocollo delle mansioni della segretaria, che però una segretaria che sa il suo mestiere deve saper fare. Vi faccio l'esempio. Il caffè, quel caffè è il minimo. Beh, il caffè è il minimo, ma può essere la prestazione di una cena, l'adesione a un... corso piuttosto che prenotazione delle stanze d'albergo, le sa esattamente, che ne so, che il suo direttore non vuole per terra la moquette, quindi lei prenotare la stanza con il parquet, o piuttosto che la casa d'albergo che non sia vista, la vuole vista parco e non sulla strada, certo. Ci sono tutte queste cose che ormai per me, che ci lavoro insieme da molti anni, sono... non occorre più verbalizzarle. Quindi lei telefona all'albergo, dice guardi per favore viene il direttore, mi raccomando, una stanza con il parquet e non con la moquette, che sia ai piani alti e non sia ai piani bassi, sia non fumatori, che ci sia magari la vasca da bagno con l'idromassaggio e non la doccia. C'è la conoscenza della persona e di queste esigenze, e per me è spontaneo, è naturale. Se lui ha un acciacco, lei sa esattamente quale medico chiamare, quale farmaco somministrargli? Allora, non arrivo al farmaco, dottor Nicoletti, no, però il medico, lo specialista da contattare, o si dice chiama, vado tranquilla. Beh, mi sembra giusto, cioè uno deve avere una prestazione tutto tondo, io sono d'accordo, perché in certi momenti la vita privata potrebbe rallentare quella che è il lavoro quotidiano di un direttore. Questo però, diciamo, è una scelta a priori. Dici, sì, io faccio la segretaria, so che devo entrare in questa sfera di attenzioni e quindi non me ne pongo un problema. I segretari della Camera, che magari saranno dirigenti, avranno un altro tipo di funzione, però dicono, ma noi mica andiamo a scegliere i calzini ai grandi magazzini al nostro direttore, noi abbiamo un lavoro di concetto, non vogliamo essere chiamati segretari. Gianbruno, buongiorno. Buongiorno. Lei cos'è? Un segretario? Un capo? Cos'è? No, io sono amministratore di una società. Quindi lei ha tante segretarie? Come? Ha tante segretarie? Non si sente ben poco. Lo so, senta, perché... io ho 75 anni. Sì. Avevo l'età di 26 anni quando ho cominciato a essere dirigente. Mm. Ma vede, tutte queste cose che dicono le segretarie, o sono stato stupido io, ma loro mi hanno fatto sempre il lavoro d'ufficio. Tutt'al più mi prendevano degli appuntamenti, altrimenti mi dimenticavo, altrimenti loro facevano il Cosmi, quando io andavo via davo delle cose ben precise, quello che dovevo quindi fare. Lei, mi scusi Gianbruno, lei capisce in questo momento cosa si è perso nei suoi oltre 40 anni di lavoro? Dice, io ho avuto tante segretarie, ho chiesto soltanto di prendermi appunti, di fissarmi gli appuntamenti, di fornirmi delle documentazioni e mi sono perso un mondo che in realtà mi apparteneva, mi spettava. Anche questo è giusto. Mi dispiace lasciarla sola con il suo dolore, però in questo momento devo dare la linea. Tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Melog. perseguitata per 14 anni dal suo datore di lavoro, dopo che la loro relazione sentimentale si era interrotta. Questo è il calvario di una segretaria milanese che ha dovuto subire di tutto. È stata minacciata, i suoi parenti hanno ricevuto lettere anonime calunniose, è stata spiata con una cimice nel suo telefono, seguita con un rilevatore satellitare piazzato nella sua auto. È stata picchiata da due uomini assoldati per inscenare uno scippo, è stata addirittura avvelenata con escrementi di topo nel tè. Una serie incredibile di prevaricazioni che ora sono un lungo elenco di reati per i quali l'imprenditore Stefano Savasta, 50 anni, è stato arrestato. La personalità di Stefano Savasta viene definita dal GIP Giorgio Barbuto. Non tutte le segretarie hanno la passione della poltronista segreta, evidentemente queste pratiche sadomasochistiche non erano giustamente e lecitamente gradite. Questa signora poi ha denunciato il datore di lavoro che cerca di avvelenarla con la cacca dei topi. Ma questi sono elementi paradossali, naturalmente. Esiste comunque un rapporto abbastanza complesso e devo dire onestamente abbastanza arcaico in tutte le moderne declinazioni dei rapporti professionali. Rimane qualcosa di indecifrabile, indefinibile, qualcosa quasi di sacrale. L'ha detto la prima nostra ascoltatrice, cioè, ma segretaria comunque in sé è una donna che ha dei segreti, gestisce dei segreti. Beh, una persona che gestisce dei segreti oggi, se donna e se l'elemento principale, il generatore di questi segreti è un uomo, chiaramente si crea un rapporto di complicità che va oltre comunque il rapporto professionale. È sempre un uomo che affida parte della sua vita a una donna, e per quanto possa essere distaccata, professionale, quanto questo faccia parte comunque delle sue incombenze anche non scritte, anche non sancite, si crea comunque un rapporto di simpatia, di affinità, di empatia fra queste persone. Empatia però basata su qualcosa, secondo me, di profondamente perverso. Perché se il film Secretary è la radicalizzazione, l'estremizzazione di questo rapporto di sudditanza di una segretaria nei confronti del suo capo, in realtà esiste sempre comunque questo minimo rapporto. È un uomo che ha del potere in mano, una donna che comunque gestisce anche la parte personale di questo uomo. Quindi è comprensibile in fondo la rivolta dei segretari di genere femminile della Camera. Dice: ma noi facciamo un altro mestiere, non facciamo questo, noi non chiamiamo il medico, non prenotiamo le stanze d'albergo, facciamo un altro lavoro. Le persone che fanno questo tipo il lavoro però è giusto che rimangano in questa area, che siano definite così, come qualcosa che comunque diventa personale, un'appendice quasi organica del loro datore di lavoro. Beatrice, buongiorno. Buongiorno. Allora, vediamo un po' di capire un po'. Io parto da una definizione che vedo dagli sms che mi arrivano, fa imbestialire molte persone: la femminilizzazione, la declinazione di genere delle professioni. A me non tocca, non sfiora, non ho ideologie, lo trovo a volte leggermente ridicolo questo accanimento, che poi non risolve la radice del problema, poi dall'altro punto di vista nemmeno mi dà fastidio. Lei come la pensa? Ma allora, ha riassunto molto in breve quello che penso anch'io. Parli anche molto lungo, perché vedo che oggi non so perché le persone non chiamano. Sono un assessore, quindi mi occupo di politica amministrativa, sono in un comune di circa 20.000 abitanti e tra le varie deleghe che mi sono state affidate c'è proprio anche quella della cultura. Allora, la trasformazione, quella che viene chiamata rivoluzione lessicale, a proposito di alcune professioni o alcuni ruoli a cui viene attribuita la femminilizzazione come se questo fosse un regalo che si fa alle donne, non solo, secondo me, anche un certo accenno macchiettistico in alcuni casi. Beh, si rende conto, mi scusi, assessore, sì. Beatrice, anzi, no, Beatrice, però in effetti, se vogliamo, distaccate da tutti i possibili inquinamenti ideologici, le rabbiosità, è un po' vecchio il termine segretario, mi dà l'idea di qualcosa di antico, di obsoleto, di sorpassato. O è d'accordo o no? Ma se noi però cogliamo quello che è stato detto prima, cioè questo discorso anche del suo significato etimologico, io sfido a trovare dei termini che sono veramente così vecchi, desueti nella nostra lingua. Non so, forse perché parto innanzitutto dal rispetto della lingua e delle persone. Poi la lingua, lei capisce che è un elemento mobile, duttile, si trasforma fluido, continuamente. Assolutamente, fluido. Però anche in questo caso, se ha senso che continui a chiamarsi, secondo me, questo è il mio modo di vedere, io che continuo a farmi chiamare assessore e non capisco perché dovrei diventare assessora, cioè anzi, lo sento quasi sminuito nel suo valore di termine di ruolo. Poi Beatrice, mi dà atto, se una delle sue segretaria, colleghe. Segretaria, a me piace, sì, ma mi dà atto. Segretaria, sì, segretario, il segretario generale. generale di un comune è un segretario, che anche se è donna. Noi abbiamo... Sì, però Beatrice, ferma un attimo. Mi sente Beatrice o no? Sì, sì, la sento male però. Ah, ecco, capisco il sovrapporsi. Allora, vediamo, prendo solo 10 secondi, poi riparla lei. Prego. Parla. Se alcuna delle sue colleghe sentisse un improvviso moto di gratificazione nel sentirsi chiamare assessora, io non negherei nemmeno a quella il piacere di sentirsi chiamare assessora. Certo, ognuno. Ah, ecco, io direi che l'idea sarebbe che non ci fosse una regola. Se ti senti meglio sentirti chiamare assessora, ti chiamo assessora. Se... Questo sì, però che se ne faccia, come dire, una battaglia culturale mi sembra, non dico inutile, ma perlomeno accessorio ed eccessivo, nel senso che occupandomi anche di tutte quelle che sono le problematiche legate, per esempio, al problema della violenza contro le donne, io... per quella che è il mio osservatorio, per quella che è la mia esperienza, i miei approfondimenti, non credo che si parta da una differenza lessicale. Non lo credo. Io difendo la dignità lessicale quando si fa uso di certe categorie in termini dispregiativo. Parlo questo di... sempre. Ho fatto sempre una battaglia contro un collega che aveva detto mongoloide, che trovavo che è un termine che non si usa più in termini dispregiativo. È brutto perché offende le persone che hanno la sindrome di Down, continuando a definire una categoria della poca capacità di comprendere con quello che per loro è uno stato con cui sono nati, e tante cose simili. Però onestamente, sulla declinazione femminile delle professioni, ognuno faccia come gli pare. Trovo che queste battaglie, quando diventano delle battaglie soltanto di forma, creino ancora di più, prestino ancora di più il fianco a quelli che dicono: vedi, dietro il politicamente corretto c'è l'ipocrisia. Il politicamente corretto ci ha permesso di fare grandi battaglie civili, però quando il politicamente corretto è un vestito vuoto dentro cui non c'è niente, sì, è chiaro, è vero, si presta il fianco a queste cose. Grazie Beatrice, salutiamo Beatrice e andiamo avanti. Una copia? Che se ne fanno le gemelle di questa? La dividono? No, no, ne ho fatte due copie. Ci ho messo la copertina, le ho fatte ristampare e rilegare in modo che non sembrassero manoscritti. E questa è una copia in più da tenere in archivio, che ne so, per qualunque evenienza. E dove sono queste favolose copie? Non le vedo da nessuna parte. Sono con le gemelle, sul treno che le porta dalla nonna. Questo è l'esempio del rapporto che vi dicevo poc'anzi, quando anche una donna ha una segretaria, qua, cade un po' il fatto che sia il dirigente maschile a usufruire in maniera vessatoria di questa figura professionale. Nel Diavolo Veste Prada, Meryl Streep è una fantastica capa di una grandissima rivista che si occupa di moda, di fashion, che è crudele, spietata con la stagista ultima arrivata. La tratta come un animale, ma non perché la disprezzi fondamentalmente, perché secondo lei ancora deve fare molta strada ed andare avanti in quella che è la progressione nell'acquisire gli strumenti del suo mestiere. Quindi è una sorta di cattiveria strumentale, perché poi alla fine si intenerirà. Io, partendo dalla difesa strenua della dignità della segretaria, poi vedete, siamo slittati su quello che sembra il tema più caldo e più sentito dai nostri ascoltatori, quella della declinazione di genere. Vi leggo qualche SMS. Dice: buongiorno, dice un ascoltatore, un piccolo intervento su queste correzioni lessicali stanno introducendo a partire dalla politica per rimarcare il diritto di genere. E ancora una volta rientriamo in questa sorta di terrore che le persone possano autodeterminare il loro genere. Anche su questo non vedrei qual è il problema, uno faccia quello che vuole. Chi è che sente minacciato da questa sorta di attenzione sulla fluidità del genere? Se qualcuno vuole essere genericamente fluido, lo sia. Perché vi sentite così colpiti? Già discutere di queste cose, dice un altro ascoltatore, Fabrizio, è indice di poca intelligenza. A prescindere da come si chiamano o si facciano chiamare, o peggio, imporre di farci chiamare, rimaniamo comunque ciò che siamo. Non cambia nulla. È solo chiacchiericcio da portineria. Le donne poco intelligenti sono proprio quelle che si attaccano a queste cazzate. La vera levatura di una persona è interiore. Fabrizio, sì, Fabrizio. Vivi in un mondo ideale in cui le persone sono belle dentro e quello che sei fuori sembra che non conti assolutamente, no? Ci sono persone per cui è importante anche avere questa sorta di riscatto. Vai a sapere cosa c'è nella vita delle persone, nelle loro esperienze personali e nella loro equazione esistenziale. Ci sentiamo tra un istante. 800 24 00 24, che ne pensate alla fine di queste segretarie? Hanno ancora ragione di essere esattamente come sono definite, o vogliamo cambiare completamente in questa grande e fantastica euforia del cambiamento anche la loro destinazione d'uso? La metta sulla mia scrivania. Ora voglio che si chini sulla scrivania in modo da guardarla direttamente. Metta la faccia molto vicino alla lettera e la legga ad alta voce. Io non capisco, signore. Non c'è niente da capire. Metta i gomiti sulla scrivania, si chini in avanti, metta la faccia vicino alla lettera e la legga ad alta voce. Gentile signor Garvey, le sono veramente grato di aver pensato... Continui, signorina Holloway, legga. Per aver pensato a me per il suo caso. E la mia segretaria ha preparato del materiale di ricerca. La legga di nuovo. Gentile signor Garvey. È attizzato come un ornitorinco questo capo mentre l'ha lesculisciata la segretaria. In un gioco naturalmente di ruolo, una donna con fantasie masochistiche trova un uomo con fantasie sadiche. Quindi figuriamoci, la coppia perfetta. E, ripeto, questo film è un'esasperazione è qualcosa che molte volte è più soffuso, con toni più smorzati, con qualcosa di non così esplicito, ma probabilmente è uno dei luoghi residui in cui l'uomo si sente veramente nella piena libertà e autorizzazione a esercitare il suo ruolo nella maniera più arcaica delle maniere. Perché? Perché è autorizzato da un contratto di lavoro, c'è una donna che è comunque al suo servizio, con la quale può fare conto al 100%. Questo è ancora qualcosa di attuale, in linea coi tempi? Non è forse il caso di riflettere su questo, dico, a chi volesse poi riformare il mondo in chiave di riscatto della parità di genere, piuttosto che fermarsi sulla vocale finale dei nomi delle professioni? 800240024. Siamo partiti dalla rivolta dei segretari della Camera, non vogliono essere chiamati segretari, e arriviamo all'idea che la femminilizzazione dei termini poi in fondo non cambia la sostanza dei ruoli. Stefano, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. No, io volevo semplicemente dire, faccio rappresentante e ho assistito a delle telefonate da parte di colleghi che prendevano, insomma, come segretarie personali le ragazze o le persone che lavorano in azienda. Allora ho sempre suggerito, mi sono anche arrabbiato qualche volta, dicendo: guarda che non sono le tue segretarie, sono delle colleghe che lavorano in azienda, quindi c'è una bella differenza, perché poi questo immaginario collettivo, chi lavora in un'azienda di fronte a una scrivania è una segretaria, è una cosa che, insomma... Ecco, dettagli meglio, dettagli meglio la sua cosa, la sua idea, però chiedevano a queste persone: sua, già che ci sei, ordinami il pranzo, fammi i biglietti, queste cose, no, del genere. Telefonare in azienda per chiedere una notizia, interrompere il lavoro che sta facendo la persona davanti a una scrivania e pretenderla subito, o dire mandami, fammi, dimmi, queste cose qui sono, insomma, un atteggiamento un po', le persone in azienda lavorano e sono delle colleghe che svolgono un altro ruolo all'interno dell'azienda, ecco, quindi non devono essere scambiate per segretarie. Le dirò una cosa, Stefano, no? I suoi colleghi viaggiano spesso in treno, perché io spesso quando sto in treno sento i soliti sbruffoni da treno che a tutto volume con il telefonino chiamano qualche collega: dammi subito le informazioni su questa cosa ad alta voce, per fare i fighi, che lo sono i grandi manager che c'ha mille segretarie, magari sono degli sfigati all'ultimo gradino della gerarchia aziendale, chiamano una povera collega e pretendono questo. Informazione di servizio, scusate, so che me lo chiedono in tanti e non c'è stata una grande comunicazione. Io continuo a viaggiare in treno, dalla domenica sono passato al sabato, alle 15 tutti i sabati avete testimonianze del mio viaggiare in treno, sento appunto sbruffoni che chiamano le colleghe chiedendo cose iperboliche e facendosi intorno come pavoni per il fatto che hanno segretario al loro servizio. Questo caso, Stefano? Sì, è esattamente questo l'esempio che volevo portare, cioè noi tendiamo a vedere il ruolo della persona che lavora in azienda come una segretaria personale, ma non del direttore o dell'amministratore delegato, nostra, quindi no, non va bene, insomma è una collega. Solo perché è una collega, magari non chiamerebbero mai un collega con lo stesso tono, se no sarebbero mandati a cagare in maniera immediata, ecco così. Diciamo di sì. Vedi che ancora però esiste, legata a un ruolo femminile che ha delle funzioni comunque di segreteria, non vuol dire fare la segretaria, il fatto che chiunque possa usarne, approfittarne, ritornando al vecchio arcaico ruolo della donna tuttofare a disposizione dell'uomo. Danilo. Nicoletti, buongiorno, sono Danilo da Roma, come stai? Tutto bene? Beh, oddio, questa mattina ho un po' d'artrite, però va bene. Mangerò le mele annurche. E le merangole, mi passa. Ascolta, amico mio, dico questa cosa con molta ironia, però c'è un fondo di verità. Sì. Il primo esempio di segretario tuttofare è il leporello del Don Giovanni di Mozart. Ma è nomo quello, però, che c'entra? Non c'entra nulla. Ma come no? Ma vabbè, come è una specie di ruffiano, non è? Sì, vabbè. No, questo... no, lui è il segretario che gli fissa gli appuntamenti. Vabbè, è una specie di ruffiano. Sì, è quello, no, che tiene il conto, tiene il conto. Vabbè, sì, la segretaria... Diciamo, in questo segretaria sa esattamente che il suo capo può avere delle amiche che sono un po' più di amiche, ma è la segretaria di altro tipo, la segretaria vergine vestale. Per la segretaria che consuma anche con il suo capo, naturalmente queste cose non le può sapere, sennò crea dei casini bestiali, fa ricatti, manda le email alla moglie, gli rovina la vita. Quindi se un uomo fa lo sbaglio enorme di avere comunque delle frequentazioni intime con la segretaria, poi deve tenersela per amante per tutto il periodo del suo mandato. Io ho visto cose del genere in illustri aziende dove ho lavorato. Segretaria ormai era come le mogli, tanto valeva aver la moglie piuttosto che un rapporto con una che mette le mani tutto il giorno nella tua vita. Ma gli uomini, sa, hanno delle debolezze. Anna, chiudiamo con Anna. Buongiorno Anna. Ok. Ci sono? Sì, beh, sì. Non so se, se lei c'è. Apprezzo moltissimo sempre, sì. Però a volte, ma niente, allora, a volte Anna, mi risponda, mannaggia, perché non sentite? A volte, lei ha detto delle, però a volte mi interessa, cosa c'è da questo a volte? Niente, è andata proprio Anna. Pronto? Ci sta lasciando Anna? Ha dei problemi? Lo dica, non abbia coraggio. Io no. No, non lo dica, la sento così titubante nel rispondermi. Ah no, ho capito, cioè, Nicoletti. Allora, sì. No, perché prima chi pensava che... delle A e delle O, io ho avuto... sono anche le U, le I e le E. Parenti, che, al di là di parenti, c'era una dignità... 50 anni fa c'era una dignità del lavoro, che si fosse laureati, che si fosse portieri, che si fosse cameriere, è questo che si è perso. Per fare buonismo... Sì, Anna, sta dicendo una cazzata, mi scusi. No, sì, Anna, sa parola buonismo, che avrà imparato probabilmente in questa ultima fase un po' svampita della sua esistenza, non c'entra nulla. 50 anni fa era un altro mondo, si respirava un'altra area, un'altra società, eravamo diversi, noi siamo cambiati proprio da un punto di vista antropologico, fisiologico in 20 anni, è un altro mondo, è inutile avere nostalgia che una volta le segretarie andavano con il grembiulino nero e con il colletto e che i direttori erano quelli che bisognava parlare tenendo il capo basso, che gli impiegati erano le mezze maniche nere, ma si rende conto? Una volta in ufficio si andava e si metteva le mezze maniche nere per non rovinare la giacca, è un altro mondo. Non lo rimpianga, non esiste più. Corrado. Sì, buongiorno Nicoletti. Sì. Velocemente, mi domando, cioè mi piacerebbe che un giorno qualcuno si svegliasse, maschio, e il dentista chiedesse di essere chiamato dentista, il geometra geometro, perché che male l'elettricista. Lei che mestiere fa, Corrado? In questo momento sono disoccupato con una visione di lavoro fra pochi giorni. Vabbè, lei è disoccupato, resta disoccupato, non può cambiare. Cioè, quindi, No, però la disoccupatessa, la signora disoccupata potrebbe essere la disoccupatessa. Ma se una signora le andasse a chiamarsi disoccupatessa, lei, cioè, che le cambia? No, quello va benissimo. Lo sa, perché io è questa credine, sì, ma questa credine. Non c'è nessun problema, tranquillo, benissimo.